cerca tra i colori se i tuoi gialli brillano coi miei. Guarda negli azzurri se il tuo cielo è pronto da rubare. Se il tuo rosso ride, il mio abisso vive con te. Danza nei tuoi neri e svelami la stanza, urla tra i pastelli la tua silhouette. Danza nei tuoi neri. Il tempo è tra le foglie e verde va nel vento come addio. Acquarelli sottovoce, silenzi bianchi nel sorriso. Se il tuo grigio è perla, anche il rosa espande. Danza nei tuoi neri e svelami la stanza, urla nei pastelli la tua silhouette. Danza nei tuoi neri.